ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. 14ª puntata. Cessò il vento in vista dell'alba, stettero più giorni immobili, a bruciar di sole, come mosche nel latte. Tutti dormivano, dal capitano ai mozzi. Pareva di essere arrivati a perdizione e che ognuno l'accettasse. Non Artemisia, che si era messa ora a uscir sul ponte e a sostar nel gran silenzio, sotto le affilate ombre delle vele, poter tornare indietro. Da che si stava fermi, poterlo comandare, ma proprio in quel momento, con uno scossone e lo schioccare di un enorme labbro goloso, la vela maestra si sollevò e ricadde, per sollevarsi e ricadere ancora, a pause sempre più brevi, finché si gonfiò e di nuovo il vascello sdruciva il mare. Un'aspra alata forza stirava indietro la veste di Artemisia, che si vedeva e si credeva sola testimone di quel cangiamento, e di colpo le strappò di testa la cuffia con un gesto quasi di mano, tirannico, brutale. Una nuvolina leggera, leggera appannò il sole e ora anche il cielo era di latte, mentre l'acqua all'orizzonte, come una diffusa chioma d'albero rovesciata, fremeva, incupiva. Un nuovo portento? No, solo il pelo, un pelo scintillante d'acciaio, la gran bestia marina si lasciava strappare. Vibrando, la nave accelerava la corsa, non per tornare indietro. Sul crepuscolo il ponte si popolò come non era mai avvenuto e si videro passeggeri insoliti. Da osservarsi due tedeschine, franche e inebriate, che strappavano di mano ai marinai secchi d'acqua salsa per tirarsene addosso a scrosci, con gran risa, le vesti succinte, nudi, polpacci, senza vergogna, gorgogliando quel loro dialetto di colombe ingorde. La costa s'era disegnata precisa, nitida, in tre colori, bianco, verde e cilestrino. Qualcuno dice, e le stelle sono già spuntate, si vede Livorno, un nome conosciuto. Le bastava di sentirlo mentovare un tempo per trasalire e arrossire e struggersi. In quella città aveva vissuto Agostino innanzi di portarsi a Roma, prima di incontrarti, bellezza. E c'erano stati giorni in cui a qualunque prezzo avrebbe voluto esserci trasportata, quasi a scoprirci l'origine delle sue disgrazie, la moglie che lui diceva morta e morta non era. Livorno, ripeté oggi tra sé, e son sillabe disanimate, un frutto vieto, senza succo. Si allarga a cerchio, si stringe a imbuto la costa, velieri all'ancora paiono correre incontro alla Jonathan e già compaiono barchette coi ragazzi nudi che offrono pesche, grappoli d'uva, scapolari della Madonna di Montenero. Chi scende a terra per dormirci una notte, chi per visitare la città, chi si sporge sgangheratamente nel gioco di acchiappar per aria le frutta lanciate a bordo. E fu notevole il trambusto di quel prete portoghese dal cappello di paglia nera che chiedeva a gran voce reliquie e benedizioni, le afferrava agilmente, le infilava nella bisaccia aperta. Non volle scendere Artemisia, impigrita da quel paesaggio terrestre troppo asciutto, animato da lumicini accesi ad uno, vicino e lontano. Rimase all'aperto tutta la notte e sull'alba, aprendo gli occhi, nel silenzio, a quella luce già pungente ma ancora brumosa, ci colse un pensiero, anzi una rivelazione, che aveva vegliato sul suo sonno e l'aveva guidato, ed era che al suo marito perduto non era né sarebbe mai sfuggita, come una figura non può sfuggire al paesaggio che la circonda, anzi ne trae respiro e sostanza. Questo paesaggio trasudava dolore, di quello bisognava ormai nutrirsi, invece di uscirle dagli occhi, di esaurirsi momentaneamente nel pianto. La disperazione le calò nel petto, statica, e il cuore le si consumava come una candela nell'aria immobile chiara, senza luce né frutto. Pazienza, pazienza. Soltanto una parola per ora, una parola difficile che già fa stringere le labbra come una saggezza raggiunta. In quel librone di stampe sfogliato da bambina c'erano le virtù, ognuna col suo nome e i suoi attributi a uso dei pittori che dovessero dipingerle. Com'era figurata la pazienza? Cercava di rammentarselo ostinatamente, come se da quell'immagine ben chiara potesse trarre suggerimenti e conforto. Intanto la Jonathan ripartiva. Un cavaliere obeso, carico di piume e di collane, salito a Livorno, prese a inchinarla profondamente quando essa usciva dal suo camerino. Lei ne aveva un piacere amaro, oppure si costringeva a pensare che laggiù in Inghilterra avrebbe potuto collocarsi onorevolmente ora che suo marito l'aveva lasciata. Ma che cresceva invece di dileguare una ripugnanza per la vita, una nausea che divenne fisica e la rovesciò sul parapetto, simile ai tanti che avevano sofferto il mare davanti a lei. Ma il mare era calmo. Di nuovo le assi del ponte bruciano e il vento, arrivato fresco e fischiante, si arrota di sole fisso, traversando la nave da bordo a bordo. Bruciano le suole delle scarpe, le mani, il mento, gli zigomi, le palpebre si coprono di squame salate. Non si respira sotto coperta. Sulla costa, certe montagne bianche cristalline richiamano, ma con secchezza crudele, i paesi dipinti intorno a santi e a madonne che capitavano a Roma nello studio del Gentileschi, roba vecchia di Venezia, che Orazio doveva stimare per gli intendenti forestieri. E perché quella è la terra, per forza bisogna guardarla, anzi riempirsene gli occhi. E gli occhi di Artemisia se ne annoiano, indocili a oggetti non scelti, che non le piacerebbe dipingere e forse non saprebbe, eppure non si potranno scordare. Continuò a fissarle per tutto un lungo giorno di luce abbagliata, finché tra quelle cime e groppe che lentamente si spostavano mutando forma e pieghe, situò con l'apparirvi di nuvole candide e lucenti qualcosa di favoloso ma familiare, rifugi, nidi di angeli e grandi angeli dalle immense ali che salissero e scendessero di valle in valle. Rivedeva gli angeli luminosi e soffici dipinti da Orazio, ma divenuti battaglieri, trasfigurati in uno splendore celeste e silenzioso. Credeva di riconoscerli e per un attimo trasalì d'una serenità folgorata, come condotta per magia fra quelle formidabili cucce, a contemplare, a dipingere lei stessa quel che nessuno aveva ancora dipinto. Sempre di più ardevano i legni, i metalli, le tele. C'era chi ne veniva scottato e sfigurato quando la nave roteò, succhiata dal golfo di Genova, e i mozzi sulle alberature cominciarono a rimandarsi grida e canti di salmi fra i voli delle prime rondini della riva. La solitudine dell'alto mare, popolandosi rapidamente di vascelli e battelli d'ogni specie, di nuovo tutti i passeggeri furono sul ponte, vestiti a festa, tra i piedi nudi dei marinai, e tutti lieti, come ognuno avesse raggiunto il fine ultimo e più caro. Una grave famiglia olandese, che neppure a Livorno s'era mostrata, s'addomesticò coi compagni di viaggio con una prestezza sorprendente, e anche con le tedeschine, che ormai si sapeva chi fossero, femmine che andavano a raggiungere l'armata di Fiandra. Solo preti e frati la famiglia schivava, e in quella letizia dell'arrivo il padre, di nome Beniamino, fece imbandire una tavola di gran costo con carni d'ogni maniera, che pareva un saccheggio, e le offriva a chi volesse, che era di venerdì. La madre allattava col seno scoperto e florido un bimbo che era nato in viaggio e pareva che nessuno ne fosse a conoscenza. Si accostò ad Artemisia e le parlava confidenziale, una parola italiana e sette strambe. Anzi, le prese una mano e volle che le tastasse fra la camicia e il busto qualcosa di insolito, parvele di intendere, alla sua condizione di puerpera. E Artemisia, seria, non capiva. Di questo non capire rideva la donna, con tutte le pieghe della pelle grassa che le si increspava sul viso, bianchissimo come di lardo. Cautamente coi remi procedeva ora la Jonathan nell'intrico del porto, addentrandosi più di quello che non avesse fatto a Livorno, strette le vele, e tutti erano pronti a rispondere, a scherzare con chi li interrogasse, urlando come usano sul mare. Così succede quando si è contenti di essere arrivati, pensava Artemisia, che in nessun luogo ormai sarebbe arrivata contenta. Gli operai dei vascelli in riparazione intorno alle gran caldaie di pece fumante, gli uomini di quelli in partenza, i barcaioli da trasporto, i pescatori che facevano colazione a bordo lanciavano domande, auguri, saluti solo dai vascelli di guerra, due galere francesi e un galeone spagnolo. Non partì voce, pur colmi di soldati e galeotti come erano. La Jonathan ci girò intorno, radendo con certa bravura guardinga gli ornati grifagni, le formidabili macchine. In silenzio i suoi uomini rallentavano le faccende per guatare tutta quella gente d'armi, i passeggeri sgranavano gli occhi e si parlavano sottovoce, e anche Artemisia li guardava con pensieri di voglia, di invidia per uno stato tutto diverso dal suo, di liberazione, se non di libertà, qualunque si fosse. Invece è proprio giunto il momento di riaffidarsi al proprio nome, di sentirsene responsabile e persuasa per persuaderne gli altri che non lo conoscono. Già le montagne intorno al golfo si distendono in prati verdi, si arricciano di alberi a contrasto col cielo, le rocce mostrano i loro accidenti di sporgenze e grotte, di alghe e muschio, infine assiepati, affocati, blocchi di muraglie, mille buchi di finestre e cupole e campanili, terrazze e il brulichio dei moli, uomini e mercanzie, carri e carrozze, l'affaticata gaiezza, il disordine vivo di una città come Napoli, da Napoli tanto lontana. Addio alla Jonathan, addio a chi va in Spagna. Qui bisogna scendere. Fu meraviglia la cortesia di ognuno, così manierosi che parve, salutandoli, di perdere degli amici. La terra era adesso questo pezzo di legno su cui, come a un tratto si dimostrò, la fama di Artemisia non era ignota affatto. Scende la pittrice, scende la dama che va sola in Inghilterra. Curiosità e cure per le casse da sbarcare, che non si sciupino badi, vossignoria, a questi ladroni del porto. Chi raccomandava un alloggio, chi un convento, chi insisteva per una visita a un parente generoso. E il cavaliere Grasso trova il momento buono per confidarle di aver traffici rilevanti a Lisbona, ma intenzione di stabilirsi a Londra, dove l'avrebbe cercata se si degnava. Il capitano le diede mano passo passo, facendole onore come a una principessa, sicché Artemisia si ritrovò svelta e sciolta come a 20 anni. In piedi, nella barchetta traballante contro il fianco del vascello, salutava con grazia, rimpiangendo le solitarie veglie sul mare, i quotidiani silenzi. Ma tant'è, così sempre le accade, che riconosce la simpatia solo al momento di perderla. Un tempo si diceva imparerò, non ha imparato, non imparerà mai. Fra tante lettere al suo comando, sceglie quella per Gaspare Lovato, mercante di quadri in Canneto, un nome senza lustro. In casa Lovato alloggiò, infatti, odorosa di droghe e miscele di colori e olio di lino, che cambiava aspetto nei giorni di conversazione, con gran trambusto di servi e facchini a ore, sala, bottega e un subisso di quadri affastellati contro le mura, rimestati senza riguardo e all'improvviso estratti dal mucchio, ripuliti, incorniciati come gioielli. E compratori d'ogni maniera, spesso in vesti bizzarre di levante, gente che chissà perché si forniva di madonne e santi, o gran cavalieri, così nobili e schifiltosi, sebbene gentili, come Artemisia non ne aveva mai visti né a Roma né a Napoli, trattavano sbrigativi, senza fasto, da mercanti pratici. La casa era altissima, ma anche dal tetto ci si poteva entrare, strano costume. E entrava chi voleva, in libertà, che Gaspare Lovato non rifiutava mai la conversazione gustosa, sempre pronto e sicuro di trovare una certa tela, magari riposta da anni. Qualche volta fumava la pipa alla fiamminga. Giustina Lovato, venuta da Padova, veste di nero come le spose nobili genovesi, licenza che ostenta. Giovane di 27 anni, ambiziosa e procacciante, ha portantina di suo e col suo dice di potersela mantenere. Fa un gran discorrere della Spinola, della Adorno, della Centurione, e non c'è giorno che non le additi all'ospite sotto specie di vestito, gioiello o livrea. Maneggia, compra, vende per suo conto, uscendo sola, sola ricevendo chi le aggrada, pulitissima sempre nell'acconciatura, occhi scintillanti e secchi, viso pallido, che la dicono di poca salute, ma non è vero. Tutto vuol fare, anche umiliarsi, e ad Artemisia si umilia, sebbene frettolosa. La signora Artemisia vuol passeggiare, vuol riposare, vuol restar servita di un poco di colazione. Noi pittrici, le confida quando ha guadagnato denaro ed è contenta, noi pittrici non siamo come le altre, perché anche lei impiastra telucce e ne riempie i monasteri genovesi. Più spesso si impiega su tele vecchie e scrostate, riducendole lustre fiammanti per i giorni di mercato, che un ometto di Albissola viene a cercarle col carrettino. Giustina cambia di linguaggio facilmente dal veneto nativo al genovese, ma non il costume di lodare tutto e tutti, impavida a voler piacere, e anche in fiammingo si ingegna, sinché scherza coi malò e da loro gran gusto, cavandogli di mano per poco argento quei loro quadretti ricercati dall'universale. Le piace la commedia e anche recitarla di carnevale quando le riesce e può. Presa e torpidamente impigliata in queste cose folte e minute su cui non sa prevalere, Artemisia se la cava passando grandi ore nella sua camera, torrida di sole, bassa di soffitto, ma che per 3 alti gradini sale a una finestra schiacciata da cui si esce in terrazza. La notte, tra mare e cielo, vedevi tante stelle che era uno spavento. Quando si ferma in questa città, le chiesero con la stessa voce a uno i pittori genovesi che capitavano dai Lovato e conoscevano il nome di Orazio per quello di un vecchio maestro che passò di qui di tratto sprezzante, orgoglioso come Satanasso. Dopo, zitti. E zitta Artemisia. Dissero che tirava dal padre la superbia. Quanto all'ingegno, nessuno voleva compromettersi a lodarlo per sentito dire, e lei ostinata a non sballare quelle sue casse. Tutta questa gente nuova, questi nuovi costumi e certezze di vita, questi nomi nuovi, settentrionali la più parte, e ognuno li conosceva, sopraffacevano la viaggiatrice. Da capo ne perdeva cognizione di sé, di quel che veramente valesse il suo lavoro. Le riusciva difficile richiamare alla memoria degli occhi, accanto a questi gran palazzi ornatissimi e chiari, i palazzi di Napoli e di Roma. Accanto a questi bei siti, a questo mare cupo, le vigne dei castelli, il mare di Posillipo. Non era possibile che tante cose così diverse esistessero a un tempo. Le pareva di aver cambiato queste con quelle per sempre perdute, e si attaccava a rimpiangerle segretamente, quasi per mantener loro vita e consistenza. Non era il suo talento di virtuosa legato a quegli aspetti? Perché stette giorni e giorni prima di prendere, fra tanta suggestione di tele, di colori, di pittorici strumenti, il pennello in mano. Come lo prese, tutti di casa le furono intorno, la Giustina e i suoi ragazzi, che erano ammaestrati precocemente e dicevano per diritto e per traverso questo è buono, questo no. Dipinse Artemisia una servente mora con una colomba stretta al seno, scura la donna, bianca la bestiola, intendendo valersi della virtù dei contrasti, e la decenne Ursula, che si esercitava nel disegno e i pittori ne facevano gran caso, osservò con una smorfietta: par fatta dal Sarzana, significando che era pittura vecchia, un'anticaglia che non si usava più. L'imbarco per Marsiglia era prossimo e ormai desiderato. Meglio forzare le porte dell'ignoto, spatriarsi del tutto, ma prima bisognava complire le dame della città. Le centurione la ricevettero fra il vivaio e l'uccelliera. Donne grandi, con mani lunghette e forti mascelle, bianche come il marmo. L'una pescava con una rete vermiglia nell'acqua verde dove i pesci guizzavano in frotte. L'altra porgeva ai merli domestici pasta di bachi alla resina. Erano sorelle e dissero insieme, con un'altera ma ardente curiosità: «Pittrice, pittrice!» si tersero le mani, ciascuna con un lino d'Irlanda, dopo che il moretto in porpora ebbe loro presentato in ginocchio il bacile d'oro. Parlarono tra loro in francese, poi in genovese schietto. La signora Lovato, presentatrice con punta, le ammirava e si inteneriva di domesticità. Parve cedere in alterezza la più imponente, trasognando a mezza voce in Inghilterra, quando seppe dove la Gentileschi era diretta. E la meno alta, dalla cui chioma scura neppure un capello tralignava, taceva intanto, quasi mostrando di non aver inteso. Poi alzò il mento e lasciò piovere dagli occhi celesti, cacciati quasi a forza tra le palpebre ed in taglio sottile, una ostilità affamata di bersaglio. Disse, e non a caso: «Quanti figli, signora Artemisia?» Fu Giustina a rispondere: «Una figlia, illustrissima», perché Artemisia si era svagata e meglio era prevenirla. Guardava, infatti, un gran ritratto di guerriero appeso in faccia alla porta della loggia. Ce n'era a Genova di simili ritratti per ogni nobil casa, e tutti così fervidi e coloriti, così festosi e fulminanti, che Artemisia stava in sospetto non fosse davvero cambiata la pittura mentre lei stava a Napoli a giocare di ombre risentite, scure chiaro, volti fieri, corpi giganti. Qui si dipingono le chiese da capo a fondo con gran spirito di colori mordenti, con gran prestezza di risoluzioni. Qui le tele spumeggiano di sete chiare, di metalli lucenti, e le carni rubiconde schioccano di salute. Tale è la maestà dei grandi in questa nazione, appresa dal pennello di quel Pietro Paolo Fiammingo di cui si fanno meraviglie anche in Spagna. Ma cambiar gusto e maniera Artemisia non può, che troppo se ne avvilirebbe e mai lo mostrerebbe di fronte a queste dame. Ora la centurione scura chiede alla Lovato se non stian per giungere quelle casse di Fiandra, tanto che le aspetta, le servono fiori e frutta per un suo gabinetto, e da questi italiani poco di nuovo e di galante si può sperare. Destramente, annuendo, la mercantessa osservò che qualche novità anche in Italia si trovava, e l'avrebbero provato con la signora Artemisia, che non c'è la pari per donna nel fare un bel ritratto, se la magnifica signora Marchesa favorirà a comandarla. Renitenti non erano le dame. Di una loro superba acquiescenza c'era da trar partito, e Giustina, combinando il prezzo, il giorno e l'ora della prima seduta, insinuava grazie di superlativi tutte venete. «Mi umilio, illustrissime!» «Illustrissime!» ripeté meccanicamente Artemisia, strisciando un inchino rigido. Ma la dama non fu ritratta, che all'improvviso andò a voltri, e come ritornò Artemisia era già partita. Né più se ne fece parola quando quelle casse di Fiandra furono schiodate davanti a lei in casa Gaspare. Scelse invece di frutta 12 marine e poi le rimandò che non le piacevano. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.